però c'è il tuo segnale 6 e mezzo, buono, eh? Come, perché? Il tuo segnale 6 e mezzo è buono? No, te lo credo, che sono in cima. Qui adesso sono una parte al cancello della parte americana. E da qua ho visto chi tocco con un tizio. Cavagava. Ti arrivo bene, comunque, vai. Qui arrivi 9, dalla in su. Campanocero, qui adesso ancora saliamo, qui ancora, che qua butta a me per andare a andare. Trucchi, trucchi. Andà via, lo vedo c'è, andà via. Vedi pure Eugenio, che è l'altra stazione del tratto, avanti. Buonasera a tutti. Ciao collega. Da altri tempi però, non di questi recenti. Ciao Pino, ciao a Gianni, da Muro, sei a Pino Cetto, che non so se mi ascolti. Vai, vicino di casa. Ciao Giulio, oggi il dollaro è un po' più basso dell'euro, comunque, ben sentito. E lo so, purtroppo siamo in discesa proprio netta, eh. E beh, come mai, da queste parti? Io sono dappertutto, come sempre, qua, là, come la città dell'Aquila, là, qui, là. Ogni tanto entro, così anche per provare, adesso sto usando un 575 H della Icom, è un baracchino che fa i 27, 26, 50 mega e 28. Ho quattro ante col vetro, Giulio, quattro ante col vetro con tutti gli attacchi. Volevo costruire intorno qualcosa, si può fare? Tu hai solo le ante, praticamente manca il mobile, così. E il mobile era in un ufficio a Cali, aveva preso acqua, e allora ho staccato le ante che c'erano il vetro intorno, e le ho portate via e basta. Certo che si può fare qualcosa, se uno ha le ante, attorno alle ante si può costruire il mobile, certamente. E rivediamo, va. Vabbè, già vengo in là, nel posto dove sei tu, magari che so io, sabato prossimo, probabilmente ci sarai. Scusate gli amici un attimino, mi confermi? Sì, se no mi fai uno squillo, se hai il numero, non so se sarà il nuovo. Però se vieni, la mia macchina dentro, te le cariche e te le porti. Poi per 9:30 a disposizione, ecco, niente di più. Ok, d'accordo, va bene così, dai. Dopo, dico, adesso io passo il microfono agli amici e poi ti dico se ho ancora quel numero, voglio dire, il numero ce l'ho, però se è sempre quello, poi mi dare conferma, dai, ti darò i due finali del numero. Vabbè, avanti Antonio. Cappa Giulio, ben sentito, buon ritratto. Cappa, no, seguite il vostro discorso, tanto c'è anche Pinuccetto il Moro dalle antenne di Tempio, da Rimbara. Poi c'è anche Gianni Capri 2 e niente, là. Vai, perché voi Giulio, se vuoi conversare con Diabolik non ci sono problemi, così vi scambiate questo numero e ciccia. Ok, vediamo. Walter, 46 gli ultimi due sono? No, non sono più quello, ho fatto disattivato il contratto. Il nuovo è 366, scrivitelo, 366, ti do qualche numero e poi ti do il resto quando ti sento. Scriviti tanto 366, poi un altro 6 e poi non me lo ricordo, poi te lo dirò, ok? Ascolta, invece fai una cosa, fai 348, mi fai lo scudo e mi rimane qua, fai 348, poi 146, 50, 36. E così mi rimane nel record. Io non ho problemi a dare il mio numero, non me ne frega niente. Dunque, ripeto, 3, 4, 8, 7, ok, va bene così, dai, l'ho già preso. Va bene, ho capo. Com'è la modulazione in questa radio, Giulio? È buona, però è leggermente cupa, ma poi con leggermente. Così va meglio? Ma non c'è stata nessuna variazione. Aspetta. guarda così va meglio? È uguale, una decisione variazione c'è stata più chiara, però va bene comunque, non ci sono problemi. Giuro, questi apparati sono così. Un 575H non lo uso quasi mai perché uso il 50 mega. Va bene. Comunque vedo che va anche qua il 27. Sì che va benissimo, altro che se va. Vediamo un po' se c'è ancora Gianni da Mursco. Gianni, scusa, ci sei, abbiamo fatto un pochino di ping pong, io e Walter. Vai Gianni. Sì, non fa niente Giulio, buonasera. Ben sentito, ciao Walter, ben sentito, la KPU è qui che ti super cordializza. Ma sembra piacere, conosci solo delle chiacchiere riguardo alle radio, io ascolto sempre, apprendo e memorizzo. Non preoccupatevi, rimetto il tutto a Walter se mi stai ascoltando, a volte Walter che ha creduto di mettere il cambio. Dove sei, a Muro su? Sì, a Eia Walter. Non è una bella zona per me, arrivi 5-3, 5, arriva più forte quello da Limbara, come si chiama, adesso mi ricordo. Comunque arrivi, ti sento 5-3, la modulazione è buona, il segnale 3. OK, Capri, va bene. Ok Walter, non proprio, lui è all'imbarazzo, certo, quindi lo potrei capire che si trova in alto. Tutto lì, proviamo a chiamarlo invece, attenzione, il Pinuccetto Capri 2 ti rilancia al volo, vai. Stiamo cercando di velocizzare qua a Cesare perché c'è un po' più di vetrine qua, e sta buttando da nord. Ok, ok, andrà bene, mi sembra se ne veniamo lì a fare le settimane bianche ancora. Cosa ne dici, Franchetto? Mi sa proprio, sì, mi sa Pinuccetto, ce ne saliamo solo a fare la settimana bianca, se saliamo con Gianni Capri 2. E ciccia, mi cosa ne pensi di luce? Ehi, cazzo, ma sono 10 minuti di zona già messo per l'Italia. È bella la sta buttando, prima che me ne... che mi attenti qua, sto cercando... Attenti, mi buttano il soccorso per la trama. KK, riprendi da Giulio. Ok, ciao Pinuccè, non so se mi ascolti, dammi notizie se mi senti, o se sono qui in scadente, vai. Ok, io guarda, la metà non è uscito il tuo numero, solo la metà l'ho preso, come mai? Oh, strano, aspetta, poi te lo toglierò. Ah ecco, mi si spegne, caspita, cosa è successo? Va bene, riprendi, va. Non lo so. Riprendi Pinuccetto. Pinuccetto, a me mi ascolti, Pinuccetto torce nel Moro. Ce l'ha tutti che sono di passaggio. Ma ciao Gigino. Un salutone particolare a un carissimo amico che sono da tanto che non lo vede e non lo ascolta, a Walter. Walter, un salutone. Ciao Gigino. Fabioce, qua sono a tavolo da Battimuglio, sto andando a prendere il caffè che devo fare una commissione, Pinuccè. Ti ascolto forte e chiaro con la fermina che c'ho sulla cappotta della macchina, Però devo scendere, ti devo salutare, salutando, mi pare che c'è Giulio, Falchetto, Capri 2, salutando tutti, Mi dovete scusare ma devo scendere dalla barra. Ho acceso così e ho sentito che sta fatta modulare. Sono entrato perché volevo salutare in particolare a Walter. Comunque vi saluto in particolare tutti, dai. Ciao, riprendi Walter. Walter, ti ha rilanciato Gigino. Marchetto. Oh, quelle scelte che ci sono anch'io, Va bene, grazie. Allora, stavo rilanciando a Walter che voleva salutarlo Gigi Vulcano. Walter, ci sei ancora? Gigi. Ma che è per Pinuccetto al volo. Ma io già l'ascoltavo, io già l'ho sentito, riuscivo a sentire a Pinuccetto. mi prendi, te la diamo il campo di due, dai. Non ti ascoltano, Giuseppe. Va bene, oggi ti salutano la batteria. Si monta un'antenna direttiva, arriva dappertutto, e Eduardo è pronto a mettere. Ok, è un po' distante, Giuseppe, per te forse. L'unica che ti sollevi come antenna, ma l'aereo potrebbe anche andare. È l'aereo che conta, riprendi Giulio. Ok, sì, ero un attimino al telefono, dunque non è che ho seguito molto il discorso che stavate facendo. L'urgenza è sempre lì, vicino alla neve, anzi sotto la neve, quanto ho capito. Comunque ti sento bene oggi, Gianni, tranquillo, pacifico, non ci sono problemi. Una radio abbastanza discreta, diciamo, almeno qui alla metastazione. Vabbè, sto ascoltando con l'altoparlante esterno, non dal baracchino, perché dal baracchino è un cesso, mentre invece dall'altoparlante esterno è molto più bella la modulazione. Dunque preferisco sentire gli amici da questo coso altoparlante qua. Ok, va bene, dai. Vediamo un po', è diventato Leoncino, mi sembra. Leoncino ci sia qua? No, Leoncino è andato a circo a lavorare. Vai, Antonio! Ho sentito. Forse si è scocciato perché non lo sento, Leoncino! Sì, mi fa che... ti ha rilanciato Giulio. Cazzo, non lo senti a Giulio? Sì che lo sento, l'ho salutato. Se lui non mi sente... No, io non lo so. Giulio, mi senti? Che sento, io ti ho rilanciato, ti ho fuori registrato, ripetili un cibo. Sì, perché c'è questo telefono, che ci sente questo telefono, sempre in frequenza, boh, non ho capito, boh, se ha occupato il telefono giù. Un attimo, che trovo a farlo rivedere a là. Magari ci sono delle sovrammodulazioni da lontano, che ne so, boh, e oggi c'è un po' troppo la frequenza, c'è QRM, eccetera, eccetera. Vabbè, ma non è importante, noi ci adattiamo a tutto, di conseguenza andiamo avanti lo stesso. Avanti, Peruce! No, io devo chiudere, sono stato intanto detto che lo sa Giulio, per tenere un po' viva la situazione. Ciao Pinuccetto, ciao Giulio, ciao Gigino, devo fare un altro viaggio, devo portare un altro paio da Cagliari, ma non te ne chiedo neanche, tanto lo so che sei incardinato. Ciao Ippodromo, ciao a tutti, ciao Capri, 73 da parte mia. Cappa, ciao di aborto. Alle prossimine è dovuto scendere Gigino perché stava prendendo il caffè, comunque se rientra e te lo saluto a parte tua. Vai Capri 2 per i saluti a Di Amore che poi fa girare. Ok, ciao Walter, è stato un piacere, ben sentito e quando ti senti bussa sempre. E sempre auguro che stai, diciamo, coltivando quella conversione che a me fa sempre piacere. Di quando sento che acquisti altre cose, mentire sempre e poi domani veniamo a vedere il tutto. Ok, benissimo, rilancio il tutto a Giulio Donato, Giulio avanti. Ok, riprendo io allora per salutare a Walter. Ciao Walter, salutoni, ci vediamo in settimana soltanto. Ok, alle prossime. Avanti Peruce! La filogia è in barra, 1200 e fischietti, Peruce. Di culo, 1221, una cosa del genere, comunque hai 1200, intorno ai 1200. E ok, però c'è, io parlo delle antenne però, è tutto all'imbaro, su, alle antenne, se no il tempio non è così alto, il tempio è, non ti credi che sia poi così tanto alto, è a grosso modo come usano. Almeno stando a quello che ho letto sul computer. Va bene, dai, facciamo girare. Avanti, Leoncì. Ehi, sono qua. E beh, giù, cosa mi racconti di bello? Ehi, sempre invecchiando e lavorando. Leoncì, cosa vuoi fare? Il tuo andrà è sempre quello. Un giorno preciso all'altro, tutti i giorni. Va bene così comunque, sono soddisfatto ad ogni modo, non ci sono problemi. Il pensare sono in pensione, lavorando, sto lavorando. comunque, meglio di così, cosa vuoi di più? Avanti a tu. Positivo, positivo, è meglio così, meglio così. Gappa, gappa, che dire, che dire? Passiamo ormai che a Gianni Capri 2, vai Gianni Capri 2 e poi fai girare per Pinuccio al volo, vai. Ok, l'importante è rilaborare e capire, non fermarsi mai più, poi oppensione, oppensione, di dire oggi ce n'è passata una, io sono così. Ok, solo che qui, questa roba degli strumenti, ho parlato anche di due numeri, io ripeto per la lancetta, capito, la questione anche di alimentazione, ma già sto uscendo, mi basta purgare. Pirucetto, mi ascolti ancora in quei pressi bassi? Ti rilancio, io al Leoncino non lo rilancio perché non ascolto, comunque se mi sta ascoltando il Leoncino, Capri 2 lo super saluta, però sempre consiglio di mettere un'antenna, diciamo, con maggiore guadagno, così almeno posso sentire la sua voce di Leoncino. Ok, quindi proviamo a rilanciare Giulio, prova ad andare per il Monte Rimbara a vedere se ti ascoltano. Beh, se era lì sotto, perlomeno stando a quello che dice lui, era lì, che ne so. Vediamo un po' se mi ascolta ancora. Attento, Pirucetto! Sì, a Sassari, di punti mi trovo, a Sassari. È strano però che io riesco ad arrivare lì, boh, perché mi sembra una zona un pochino difficile per me. Almeno stando qui dalle punti, dalle punti è basso, non è come Sassari, siamo a 130 metri qua, misurato col GPS, 135 metri sotto casa, va bene, più 10 di antenna, cioè 10 di casa, 10,50, più altri 5 metri di antenna e diventano 145-150 metri, sempre 70 metri, sempre più in basso del livello di Sassari. Boh, vabbè. Va bene così, Pinocchio, sono contento se arrivo lì, vai! Ok, io Pinocchio, mi fa piacere, sai perché? Per due cose. Innanzitutto perché la situazione è relativamente efficiente nonostante che l'antenna è a metà con i radiali, ce ne mancano 6, da 16 ce ne mancano 6, 6 o 7, una cosa del genere. Secondo luogo perché per tempio mi interessa in quanto ci lavora mia figlia e dunque so che un domani posso anche collegarmi con lei tramite radio. Va bene, oltre che col telefono, vabbè, telefono no, non ci sono frontiere per il telefono, si arriva dappertutto. Va bene così, mi fa piacere questo, sono molto contento. Avanti Gianni, lavulos. Ma Giulio, dimmi se stai usando il Tokai. Sì, sto usando il Tokai 5024, sì, il vecchio Tokai, sì. Un saluto solo, poi me ne vado. Cercando, oh, ciao, perché ce l'ho sul banco, non riesco a dover... Ciao, Claudio. Quello lungo per alimentarlo, fanno funzionare, se poi ce lo trovano, sono curiosito attaccare il mio, riprendi a tu. Un attimo che c'è stato un saluto, ben entrato Claudio, ben ascoltato, avanti. Buonasera a tutti, un saluto solo e poi me ne vado. Che non c'ho antenna qua e sto usando l'antenna HF. Ciao a tutti, una buona domenica per Giulio, Giuseppe, Antonio, Gianni, Walter, che l'ho sentito di sfuggita, sono appena arrivato a casa, e soprattutto per Pinuccetto che lo sento in lontananza. Un abbraccio a tutti, una buona fine domenica e un presto a riascoltarci. Il microfono per chi mi ha fatto entrare e vi saluto e chiudo. Ciao a tutti. Ciao, te l'ha detto, mi ha fatto molto piacere ascoltarti. Quando vuoi siamo qua. Rilascio ormai a Giulio per i saluti a Claudio. Vai Giulio, poi fai girare. Ok, ok, ciao qua, stretta di mano. È tanto tempo che non ci vediamo di persona, vabbè, avremo modo, recupereremo, non ci sono problemi qua. Ricordati per quello fare quando vuoi lo facciamo, anche perché c'è quel legno di quel piano superiore, ho visto che c'è in questo momento, va bene, mi darai risposta quando vuoi tu. Vabbè, dai, prendi e così mi dai conferma subito che cosa vuoi fare, vai. Sì, Giulio, oggi ho le misure anche, no? Non c'è problema, è che sono impegnatissimo e poi ho staccato la... mi squilla il telefono. Poi ho staccato l'antenna, la mantova, sto usando un dipolo full side. Ok, avanti, riprendi tu e rispondo al telefono. Break. Registrato il break, d'accordo, d'accordo qua. Aspetta, attendo tu, notizia quando vuoi tu. Non c'è fretta e non ci sono problemi. Avanti, break. Capo, lo sentite? Io ti sento con le orecchie, tu non lo so se mi senti. Sì, a voglia. No, no. Ma per voi se vado a toccare anche il microfono. Mi fate sfini, ma... fatto un casino. E cosa hai combinato? Buonasera. Cosa ho combinato? Ciao Giulio, ciao Claudio, Antonio, insomma. Ciao a tutti. Allora, cosa ho combinato? Che... come si chiama? Sandro mi ha dato i fili sbagliati, perché io ho fatto la prova, ma ho fatto un casino, va. Un casino, ho dovuto smontare, l'ho spinotto da qua, sono 7 fili, praticamente ho usato questo spinotto per metterlo lì nella B+4, ma non va, Ma Sandro, ma non sapere se questi spinotti a auto li vendono, a 10, boh, auto a 10 sono. Hey, capo. Buonasera, circolare a tutta la ruota. Cosa ti volevo dire? Ma io te l'ho dato perché ho provato sull'amplificato l'MPP5, addirittura diciamo quel componente, quel lavoro lì l'ho scaricato su internet tramite schema e va bene. Allora, guarda, ce l'ho qua, scusate, vabbè, facciamo riprendere Antonio per i saluti, vai Antonio. Capo, dai, salutone Sandro, ben entrato. Dai, facciamo riprendere tutta la ruota per i saluti e poi riprendete il vostro discorso, vai. Fate roba veloce. Capo, vai giù. Ok, sì, io ho salutato così al volo poc'anzi Sandro, l'ho salutato, saluto di nuovo a te anche Luca e faccio girare, dai, avanti Luci. Luci ogni tanto sparisce, boh, al ciclo deve essere andato. Vabbè, dai, avanti Gianni, Capri 2. Ok, riprendo io, allora prima di tutto saluto a Claudio Spadolino, che diciamo si sarà salutato di quei vecchi, ben sentito e diciamo le auguro un buon tutto e saluto anche al suo cuore familiare, poi saluto a Sandro con la buonasera e anche a Luca. E rimetto il tutto a Sandro, Sandro Caffredo e tieni l'altra se ascolti. Si è rilanciato a me? Si è rilanciato a me, non ho sentito. Ha rilanciato a Sandro la papattacco, vai Sandro. Scusate, mi riprendo io, ero al telefono, vi saluto tutti, dai, buona domenica a tutti e ci sentiamo alle prossime. Non so neanche se chi mi ascolta, chi non mi ascolta, perché sto usando un'antenna che non è per la 27. Sono entrato a salutarvi, stavo rispondendo al telefono. Ciao a tutti, sto andando a baracchino e c'è un commutatore che mi commuta un dipolo full side per i 10, 15, 20 e 40 metri, ma non so neanche chi mi sta ascoltando, quindi chi mi ascolta, buona domenica a tutti, divertitevi e ci sentiamo alle prossime quando sarà. Ciao anche a Luca, ciao anche a Sandro, ciao a tutti, buona domenica a tutti, ciao. Claudio, comunque buonasera e buon tutto di nuovo, saluto, rilancio a Sandro. Ok, ciao Gianni, ben ascoltato, dopo un pochino, dai, 7351 più cordiali. Ok, saluto a quel patinoso, io lo chiamo patinoso, Claudio, non ti offendere, Ma se ti dico Padre nostro, te lo dico con tutto il cuore. Ciao, buon fine serata e tutte le prossime. Ok. Cosa volevo dire a Luca? Luca, io l'ho provato, quello a fare mio, va bene. Quando uno sa andare a salutare gli amici non è badinoso, è badinoso quando non rispetta gli accordi. Quindi io sono qua in radio, ho sentito gli amici e sono entrato a salutare. Sai benissimo che non ho neanche l'antenna 27 più, quindi chi mi ascolta, chi non mi ascolta pazienza, ma è un dovere salutare chi veramente sta nel cuore. Ciao, badinoso di Porto Torres, come si dice, mamma diceva, su 5 di Coglio, ciao. Ecco, io lo sapevo che sarà per questo. Ciao Claudia, guarda, è stato così un qualcosa di scherzoso, capito? Non te la prenderà male, capito? Non te la prenderà male. È stata soltanto una battuta così scherzosa. Ciao Claudia, alle prossime. Alessandro, ma figurati se mi posso allenare con te, guarda, figurati. Io rispetto gli accordi, ho detto che non c'entro, però doverosamente di fine domenica è doveroso salutare veramente chi ha il cuore e ha nel cuore, come dice Giulio la 27, ma non, per altri motivi particolari non è che mi interessi più di tanto, però doverosamente quando capita un questione del genere, da parte mia, ripeto, e non voglio essere monotono, ma ribadisco, doverosamente bisogna entrare a salutare, altrimenti diventa una cosa troppo schifosa per chi mi conosce. Ciao a tutti, un abbraccio grande, grande, grande a tutti quelli che sono in ruota, perché veramente siete persone squisite. Ci sentiamo alle prossime quando sarà. Ciao a tutti, Luca, per te il microfono, scusa se te l'ho preso, ciao. No, non c'è problema, no. Niente, allora, Sandro, praticamente ho fatto quello che mi ha detto, no? Poi non so se l'ha spostati i fili. Portone nella parte sinistra, ce l'ha. Piolino no. Il secondo piolino ci mette in calza, ok? Vabbè, il primo no, secondo rosso calza, il terzo nero, il giallo centrale. Fatto ma non va. Dico con Lucia la radio. Arrivato a questo punto non so cosa dirti, o Luca. Non lo so, io te l'ho dato perché l'ho provato e andava bene, va bene, tutto lì. Comunque Claudia, non te la prenderà male, è stato diciamo una battuta così scherzosa. Hai dimostrato, o fino adesso stasera hai dimostrato che fa parte sempre della 27, hai dimostrato che la radio è una passione che ti sta a cuore, come logicamente chi sta in 27 sta a cuore la radio, quindi hai dimostrato che la 27 si sta sempre vicina e non oltre, quindi Claudia, va bene così, dai, con tutto un abbraccione. Niente, non so cosa dirti, all'infuori che diciamo nel connettore dell'apparato non ci siano dei fili che diciamo siano invertiti in proporzione diciamo a quel collegamento lì, altro diciamo non posso dirti, tutto lì. Ok, non la faccio più lunga, ho salutato lì a Gianni di Muros, ciao Gianni, ben ascoltato anche a te, mi sembra che c'era anche Antonio, avanti Antonio con la buonasera. 3K, io ti ho salutato, con la buonasera, ti torno a risaluta Claudietto, che avremo l'opportunità di vederci anche per il calo con Claudietto. E niente, rilancio il mic a Giulio e poi Giulio fa la girare, vai Giulio. Ok, riprendo io allora, vediamo un po' di andare avanti. Io stavo facendo un po' cazzo delle cose e adesso mi sono liberato, così posso concentrarmi meglio e stare più attento alla frequenza, va bene, poco anzi ero così saltellante diciamo da un punto all'altro con il microfono che si allungava oltre misura e non è che andava molto bene, a rischio anche di farlo cadere per terra o di strappare qualche filo, eccetera, eccetera. Va bene così, dai. Adesso mi sono sistemato, mi sono messo comodo, tranquillo, come solitamente io faccio quando sono alla radio, di conseguenza non ho problemi per stare anche tutta la sera. Per chi mi vuole sentire, naturalmente. A proposito di Claudio, devo dire, Sandro, in risposta a quello che stavi dicendo poc'anzi tu, devo dire, sì, Claudio in effetti è un grandissimo appassionato della radio, e io aggiungo anche qualcosina, è un trascinatore della frequenza. Senza Claudio probabilmente muore definitivamente la frequenza, guarda, questo lo dico con tutta sincerità, la verità, senza preamboli e senza avere peli sulla lingua. Di conseguenza io spero che lui continui a restare tra di noi, così almeno facciamo QSO e durerà sempre la frequenza a lungo. Anche se devo dire che nell'ultimo periodo, nell'ultimo tempo, si è ridotta a quasi zero. Ma va bene, speriamo bene, dai. Vediamo un po', avanti Gianni Lamulos. Ok, riprendo, non rimango molto in quanto mi devo anche spostare un attimo, lo posso dire, all'altro QTH dal Grindellone. Comunque, dobbiamo anche fare una chiamata, se risponde Pinuccetto, e Pinuccetto il Mauro si ascolti ancora? Forse Pinuccetto si è stufato capito, e niente, comunque se rientra tranquillamente siamo qui. Ok, Renato invece a Falchetto, io me la posso andare che devo andare all'altro QTH di abitazione e lascio a cielo se che rientro, che siete ancora qui, riprendo, altrimenti riterete qui super salutante perché mi ha rubato una passa che devo andare un attimino lì. Ok, riprendi un po'. Positivo, dai, buon tutto allora, già, se ci siamo riprendi ci fa molto piacere, vai Giulio per i saluti. Ok, ciao, allora Gianni, se devi chiudere non ti salutato da parte mia, mando avanti subito Sandro che farà girare poi per gli altri amici, avanti Sandro. Ok, saluto lì Gianni, buon correttivo, diciamo, momentaneo, ce la sentiamo tutte alle prossime, dai Gianni, noi siamo sempre qui sulla 27, anche se non siamo, diciamo, tutti i giorni appiccicati alla 27, ma comunque ogni tanto ce la facciamo. Ok Giulio, io mi sono permesso, diciamo, sempre a titolo scherzoso nei confronti di Claudio, perché con Claudio, grazie a Dio, ci conosciamo quasi da ragazzini, quasi, non dico, ma quasi da ragazzini. Conosco Claudio, Claudio mi conosce, quindi mi sono permesso così a titolo scherzoso, mai mi permetterei, diciamo, nei confronti di Claudio e neanche di qualsiasi altra persona di potermi azzardare, di dare un giudizio oppure di dare una battuta scherzosa di questo modo. Sì, lo so, Claudio è un grande trascinatore della 27, è stato sempre un grande trascinatore, perché Claudio, diciamo, per chi lo conosce, diciamo, Claudio è una persona, diciamo, che se ti deve dire, guarda, vai a quel paese, te lo dice tranquillamente, perché evidentemente c'ha tutte le ragioni, quindi ci conosciamo abbastanza, quindi è una persona, diciamo, con la ciliegina sulla torta, ok, ma non la facciamo più lunga del solito. Ok Giulio, niente, io ho toccato qualcosa qua, mi darei un giudizio di modulazione se mi state ascoltando bene, tutto lì, vai Giulio. A te, Giulio. Sì, ti sto ascoltando molto bene, Sandro, va benissimo, nessun problema. Avanti Luca, dimmi. Niente, prima stavo chiedendo, cioè questi non chiudono la finestra, questi chiudono chissà che cosa. Stavo chiedendo se vendono quella stanza in una spinotta a 8. A 8 punte? Sì, penso, sì, certo che non so se è stato dicendo, ma esiste però. Beh certo. Vabbè, esiste, cioè per forza deve esistere. Vediamo un po' se. Sì, a 8, 4, 4. No. Sai, aspetta un attimo, mi sa che è a 10, a 8, buco. Dovrebbe essere a 8, dovrebbe essere. sassa e non so se è fornito, forse Fusano avrà qualcosa. Neanche posti non ci andrai nemmeno, perché intanto sono con la massa di pellegrini tutti quanti, soprattutto quello che c'era una volta lì a Recucci, non ha più niente di bah, vabbè, là, non allunghiamo in certe cose, niente di particolare, ma forse non c'è nemmeno lavoro e allora non si forniscono nemmeno questi negozi, che poi sono negozietti tutto sommato, se vogliamo, in fase di, cioè in quanto è vitrunica non è che hanno più di tanto, capito? Io andrei direttamente da Fusano per sentire un po' dalla signora Giovanna, mi sembra che si chiama, quella donna intanto è competente di me personalmente, poi so che era molto molto fornito come negozio prima, ne sarà rimasto qualcosa, suppongo. Vai Luca. Sì, no, ci sto per chiedere se c'era. Per non far smontare questo qua, capito? Poi sono 7 sfide da saldare, ma sono un po' ieri, però per un pezzo sono riuscito, Me l'ho segnati più ovviamente, ho fatto il disegno e poi me l'ho risaldato, no? Devo provare il sistema per poterlo applicare, ecco, questo non è B+4. Sì, faccio un controllo su internet, ma do un'occhiata, vediamo un po' se trovo lo schema. E se riusciamo a. Sì, già. Come trovo questo microfono? Vedrò un po'. Sono curioso per voi come esce, ma sono sicuro che esce bene. Guarda, se c'è il manuale di quella radio, c'è lo schema attaccato, c'è lo schema che ti dà i pin del microfono. Ah, no, quel microfono normale, no, allora, ho staccato tutti i fili ieri, questo lo sto usando adesso, nel keyboard parlo. Ho saldati, risaldati tutti quanti e risaldati, perché me li ho segnati. Io sto parlando per applicare l'MB+4 al Kenwood. Devo sapere quali sono i fili esatti, perché quelli in alto stanno non vanno bene. Sono andato anche ieri, poco bucio la radio. Là. Però adesso mi faccio un controllo su internet, vediamo un po' se riesco a trovare lo schemino per applicare l'MB+4. Ti sto dicendo che se c'è il manuale del 140, nel manuale del 140, nella pagina 12, dove c'hai lo schema microfono, c'è l'attacco dei pin e ti indica tutte le connessioni per poter inserire qualsiasi tipo di microfono. Andi via giù, manuale, me la do giù, l'apparecchio. E non c'è il manuale? Ma va, tu che mi hai dato manuale mi hai dato? Assolutamente no, mi hai dato solo la radio e boh. Vabbè, non era il mio, quello lì, non mi ricordo boh, di chi era, se era il mio o non so. Comunque non è difficile. Vai su Google, digita TS140 e poi nella pagina che ti dà iniziale digita microfono. Pin microfono. E ti apre la pagina dove ti dà proprio il connettore con tutti i numeri, dove ti indica tutti i colori per poter applicare qualsiasi tipo di microfono. Ma ascolta, ma li vendono 10 minuti, esatto, sì. Sì, vai a Fusano, non c'è problema. Andiamo, no, sentiamo dopo ragazzi, adesso fai roba, adesso cerco questo coso qua. Così me li segno e niente, rilancio di nuovo il microfono a Giulio, che mi ha fatto passare, vengo qua in ascolto, vai Giulio. Un attimo Giulio. Sandro. Ok, con le scuse, guarda, Luca, questo è diciamo l'adattamento che ho fatto io. Claudio sa benissimo con quale apparato sto modulando, quindi come ti sembra? Rispondo io allora, spero che non riprende Luca. Io ti ascolto bene, non ho problemi nell'ascoltarti, va benissimo. Avanti Luca, quando sta già tagliando lo schiotto. Sì, Luca, se stai ascoltando, fai come ti ha detto Claudio, che sicuramente risolvi il problema. Non ci sono dubbi. Va bene, dai. Però attento, perché credo, e questa è una domanda che faccio qua, mi sembra che lì in quella presa a pannello del 140 ci deve essere anche una leggera tensione, perché mi ricordo che alimenta anche il microfono, bisogna fare attenzione a quello, al cortocircuito, Luca. Credo, mi sembra che lui adesso io che l'ho avuto tanti anni fa, ma non mi ricordo più perfettamente com'è la storia. Claudio, se si è con l'ascolto, mi vuoi dare una delucidazione in merito? Si conferma, centrale, sono 6 volts, gliel'ho già detto, stai attento. Il giallo è 6 volts, quindi va eliminato per la connessione ai microfoni che hanno la batteria. Quindi, blu, nero, rosso, calza con marrone, tutte e due assieme. Queste sono le connessioni perché sono 4 fili più la calza. Vanno eliminati gli altri 4 che sono il down, l'up, l'amplificazione al circuito di preamplificazione, quindi l'alimentazione all'MC60, quindi vanno eliminati. Ok, però per fare le cose fatte bene bisogna guardare lo schema. Google TS140, scrivi connettore pin TS140, ti apre la pagina, ti controlli bene i colori, ti dà l'apertura delle connessioni e colleghi come ti dà la connessione al computer. Altrimenti aspetti, domani ti passo il manuale, ti fai la fotocopia della pagina e lavori come i cristiani. Buona domenica a tutti. Cappa, buona domenica anche a te Claudietto. Ok qua, sì, qualcosa io mi ricordavo, ma perché io ce l'ho avuto tantissimi anni fa, che poi tra l'altro non ho avuto modo nemmeno di usarlo, il 140, quando era proprio all'inizio, appena uscito era. Dopo ce l'avevo sempre conservato, secondo me avevo quel periodo antennino, non potevo rischiarlo, e allora me l'ho venduto, ma comunque me ne sono pentito sinceramente. Io non mi pento mai delle mie azioni, però di quello me ne sono pentito veramente. Non è portato, dai, è già portato. Però avevo un'infarinatura, ce l'avevo ancora, perché mi ricordavo appunto qua che c'era della tensione, è per quello che ho voluto non mettere sul chivalà a Luca, perché se fa un cortocircuito è capace che rovina l'apparecchio. Va bene, grazie comunque della spiegazione, della delucidazione, ero qua. Faccio girare per l'amico Sandro. Vai Sandro. Ok. Ok, dai, adesso bisogna vedere, può niente di strano che da apparato a apparato possa cambiare. Io adesso, in questo momento, sto usando quella modifica che ho fatto sempre, ho adattato un MPPV5, logicamente prima di poter fare un qualcosa del genere ho scaricato dal sito di internet dove mi hanno altri lo stesso l'hanno proprio scaricato, ho visto che va bene, quindi niente di strano che vada che da apparato a apparato va bene. Scusate che mi hanno suonato. Ok, riprendo io allora. Sì, va bene. Ah tu, se pensa che sta iniziando, ha iniziato a piovere forte, perché qua sento un fruscio di QRM, quando piove forte qua lo sento, e come? Evidentemente qui nella mia zona sta piovendo con una certa insistenza. Va bene, dai, effetto condensatore, così chiamato. Va bene, riprendi tu. Positivo, abbiamo lasciato in bianco a Pinocetto, non so se ci ascolti ancora, proviamo a rilanciarlo, attento Pinocetto, se ci vai ascoltando via avanti. Negativo, Pinocetto è chiuso, va bene, io ho rilanciato la clavetta, ma non so se... vai Claudio. Dai, riprendo io, vediamo un po' se Luca può parlare o cosa sta combinando. Luca, cos'è che stai combinando? Facci sapere. No, sto cambiando una password di un programma, non posso la far cambiare. Adesso mi cerco quel, vediamo un po' se riesco a trovarlo. Adesso lo chiedo, mi sentiamo domani Antonio Riserva, lo chiedo a lui, lo posso attaccare senza fare tutti questi giri e giretti. Non è solo a comprare lo spinotto, non fa un tavolo da qua, da no, è 8, non va bene, non fa, dai, no. Di volte vuoi risaldare, guarda, io ci ho messo un bel, insomma, piano piano ci ho messo, tata, uno per uno, non ha fatto i scillucci, mai più, Hai perso la pazienza, guarda che in elettronica pazienza ce ne vuole tanta, e non devi prendere mai la calma perché sennò ti impapini ed è peggio. No, ma io direi, visto che hai considerato che Claudio si è offerto, che ti offre la fotocopia delle cose, ti dà una, perché non lo aspetti a domani, e così almeno avrai le idee chiare, e poi magari ti spiega anche lui quali sono i fili che devi utilizzare e quelli che devi scartare, perché l'ha spiegato anche poc'anzi, non so se tu li ascolti, ma suppongo di sì. Claudio ha elencato una serie di fili che sono quelli da utilizzare per la connessione del microfono. Altri fili vanno eliminati perché abbiamo spiegato da poc'anzi che c'è della tensione, attento a non fare cortocircuito, se non ti puoi rovinare l'apparecchio, e quello è un peccato, rovinare l'apparecchio di igiene, capito? Perciò aspetta domani, ti dà la fotocopia dove c'è lo schema dei pin e dunque puoi risolvere il problema senza cervellarti il cervello, capito, o Luca? Sì, no, quello sì, no, ci mancherebbe. No, vabbè, do un'occhiata su internet, vediamo un po'. Vediamo un po', perché mi sembra strano che il rosso e la carta siano assieme. Ecco cos'è, dov'è il problema? Quello che un po' mi turba, ecco. Tu magari ho sbagliato io, ma non ho sbagliato assolutamente. Ah, ecco, sì, ok. La password l'ho cambiata. Tutto qua, dai, senza monopolizzare, faccio riprendere a Gianni K2, con le scuse, vai Gianni. No, riprendo io perché Gianni si era sentato, doveva uscire, non so se poi ritornerà qui in frequenza, non lo so. Casomai c'è rimasto Antonio, c'è rimasto, avanti Antonio. Sì, positivo. Sì, infatti giù, va bene aspettare un giorno in più, così tanto come ha detto gli ha già dato tutto, gli darà anche il foglio, il copione, via dicendo, così vai a colpo sicuro tutto qua. Vai giù. Ok, sì, beh, in effetti, intanto non è una cosa urgentissima collegare il microfono, fanno adesso, fanno domani, non è che cambia poi tanto. E poi ricordate sempre il sistema da me adottato da anni, che poi si è anche diffuso un pochino per certe persone che l'hanno fatto, o Luca, anziché stare a saldare sempre, tutte le volte, ti fai uno spezzone con lo spinotto al baracchino e lo spezzone con lo spinotto al microfono e non fai altro che collegare i fili così a mano. Quando sei sicuro del collegamento allora puoi saldare con certezza. Va bene, dai, c'è Sandro, vediamo un po' se ha finito la telefonata. Vai Sandro. Thank you. viaggiando, quindi secondo il tuo parere com'è? Allora, aspetta, Sandro, posso? Vai! Allora, qua dice, ecco, ho trovato, qua non so cosa fanno, boh, chiedono, forse ti devi anche iscrivere per fare delle domande. Allora dice, ciao GR, dice qua, la connessione microfonica, che vuol dire sono le seguenti, modulatore dovrebbe essere il filo giallo nello ZG, se non ricordo male, vabbè, piedino 1, poi piedino 2, PPP dovrebbe essere il rosso, dice qua, il piedino 7 massa, il piedino 8 PPP filo nero. Quindi diciamo tutto alla rovescia di cosa ho combinato io, e non lo so, sto sicuro, ti ripeto, magari da parato a parato magari cambia tutto lì. Metti la massa col rosso, che vanno in due. Sì, Sandro, ti sto ascoltando, vai benissimo, ma non vi posso seguire perché sto trasmettendo un'altra frequenza. Oh, qua non fa, qua sono quattro qui da saldare, non tre. Non li puoi mettere assieme massa e rosso. Chi te l'ha detto? Qua c'è scritto, allora, primo piedino, filo giallo, ok? Secondo piedino, filo rosso. Terzo piedino, numero 7, massa. Quarto piedino, filo nero. E poi, scusa, allora, qua parla 1, 2, 7, 8. Sono 4 fili, non sono 3 fili. Cioè, perché praticamente due li stai mettendo assieme. Parla di un primo piedino, secondo piedino, settimo piedino, ottavo piedino. Sì, ma che mi ricordo io, da manuale c'è la massa attaccata, a me pare col rosso, che mi ricordo io, perché praticamente il rosso è la portante e se non c'è la massa attaccata non ti dà la modulazione. Comunque lo metto nei preferiti, vediamo un po'. Comunque questo qua è per 140 e TS 680, che sono uguali. Allora, confermo ciò che stava dicendo Claudio, in effetti io inizialmente cosa ho fatto? Non ho incluso la carta col rosso, infatti di portante non usciva. Ho collegato calza e rosso, diciamo, assieme sul pin 6, sul pin 5 il nero e sul pin 8 il giallo. Quindi ho fatto la combinazione. C'è da considerare anche questo, Luca, occhio alle saldature a freddo, che non abbi fatto qualche saldatura a freddo. No, negativo, sa. Non va neanche importante. Ci ho provato ieri e sapessero fatici in luccica. Pensavo che era a 6 lo spinotto. Poi c'è il buio che era a 6, a 8, poi c'è a 6. Del Mobico, capito? Comunque l'ho segnato come hai detto tu mi sono segnato i fili di questo qua, del microfono normale, e domani adesso numero di mattina, guarda il microfono spinotto e provo questi qua da internet, vediamo un po' cosa esce. Quanto mi costa niente, io li saldo solo, poi se va bene, se va posso? Vai. Io vi saluto, dai, che sto uscendo a fare la commissione. Salutoni a Claudio, Giulio, Luca e Gianni Capridue, dai, e tutti gli eventuali ascoltori. Io vi saluto e tutte le migliori. Ciao. E lui allora, ciao Antonio, salutoni e buona passeggiata. Ok. Sì, Luca, vai, intanto saluto Antonio, vai, poi ti dico qualcosa, vai. Scusate un attimino, correti da parte mia, qua sta arrivando bufera a tutto andare, piovendo, e mi è salito il QRM a 9.5, quindi scusatemi, ma correti da parte mia, salutoni a tutti. Ok, riprendo io, sa, ciao, salutoni, è poca altra qua con la bufera, infatti avevo accennato a, a un QRM era dovuta alla pioggia, il fatto che si sentiva. Va bene, avanti Luca. Ciao, ciao Antonio, ciao Sara, alla prossima, ciao ciao. Perché infatti poco qua stava piovendo, ciao ciao, la finestra è chiusa e non so se c'è il vento o cosa sta facendo. E niente, adesso vediamo un po'. No, adesso non faccio niente io assolutamente, comunque quello lo tengo d'occhio, quello che ho preso da internet, vediamo un po'. Dice dovrebbe, oppure forse, ecco qual è il problema, poi bisogna essere quello. Sì, ho capito Luca. Io appunto ti stavo dicendo, Concardi, io per evitare di stare sempre saldando così volto che magari uno non salda alla prima saldatura che fa in un trupe, magari perché non sai come sono le connessioni, allora incomincia a girare, no? I fili è disposti da un pin all'altro. E io non lo facevo. Altro che fare, col lavoro sullo spinotto del baracchino direttamente, cosa facevo? Mi compravo uno spinotto, tanto costa una pizzeria. Con un euro ti compro uno spinotto, uno spezzone di filo, attaccavo lo spinotto, quello del baracchino, e lo spezzone senza niente, con i fili nudi, tutti nudi. E così facevo al microfono, toglievo lo spinotto dal microfono, dopo che avevo stabilito come dovevano essere, grosso modo, senza fare danno, collegavo i fili a mano così, a contatto. Dopodiché prendevo una penna, mi disegnavo su una carta per dire che sono io rosso con giallo, giallo con no, che sono io con un altro colore e così via. E allora saltavo a colpo sicuro. E al primo colpo piazzavo lo spinotto o Luca. Senza stare lì una serata invertendo fili, perché lo so, è scocciante, e saldare, disaldare e così via, poi a un certo punto finisce che si brucia tutto anche. Se si brucia nel senso, bruci i fili, bruci lo spinotto, bruci tutto. E invece in quel modo lì va a colpo sicuro, Luca, hai capito? Sì, no, vabbè, per quello no, non c'è problema. Stavo pensando anche di comprare, diciamo, la TACA 4 ce l'ho. Perciò prendo riferimento ai fili del... si può fare? Vedi no? Ma comunque, mi sa di sì, dai, perché prendo riferimento dallo spinotto, non mi guardo i fili, perciò dallo spezzone praticamente mi segno i fili giusti, tipo giallo, rosso, calza giallo, rosso, calza nero, no? Mi prendo riferimento, mi faccio uno spezzoncino, questo spezzoncino lo attacco allo spinotto a 8, così non smonto neanche quello del MB+4, perché ieri, guarda, se me l'ha fatta apposta, allucinante, non andava più del MB+4, io avessi i fili di nuovo, ma non prima, ecco, smonto, ha passato il nick, sono tonta, guarda, stavo dicendo, non andava più, non l'ho fatto, poi ho tagliato i fili, di netti, cioè i fili che ho saldato, li ho tagliati, li ho rifatti a nuovo, adesso funziona. Aspetta un attimino, io mi stavo chiedendo l'aiuto, aspetta. Sì, d'accordo. Vediamo, forse c'era qualcuno che voleva entrare. Chi era con la portantina sotto, poc'anzi? Vuoi entrare? No, non c'è nessuno. Va bene, vai. Mi sa che sono rimasto solo. Vediamo, forse, se Gianni da Muros c'è ancora. Gianni, ci sei ritornato? No, Gianni non c'è. Antonio è uscito, Pino c'è, non c'è più, perché aveva chiuso sicuramente da tanto, si trovava in macchina lui e dunque probabilmente anche impossibilitato arrivare qua. Poi chi c'era? Sandro ha chiuso lo stesso, sono rimasto da solo. Aspettate Luca, se rientra, se lo chiudo anch'io. No, mi chiuso, fanno una mano alla ricca, mi ha fatto un casino, l'ho fatto anche lì con questo programma, ha cambiato la password, non ce la fa rientrare, aspetta. Ho capito, sono qua, vai. Attenzione Benito, ci sei? Attento Pacchisio Gigante, ci sei? In ascolto? Attenzione Stefano Principe, ci sei? In ascolto? Roberto Quadrato, ci sei? In ascolto? Tutti sono. Tutti quanti assenti sono. vabbè, pazienza. Pazienza Luca, vai avanti, dimmi. Va bene, adesso provando, vediamo un po'. Allora, aspetta, vediamo un po'. Sì, ma va bene. Questa casino che ha fatto, va. Se vedete. Si mettono a toccare e poi non so fare niente, va. Aspetta. Aspetta un attimo. Aspetta, qui stai iniziando di nuovo a piovere abbastanza forte, lo sento dal baracchino. Io quando piove forte qua me ne accorgo dal baracchino, perché incomincia a fare un pochino di QRM. E vabbè, dai. Tempo giù, io. Infatti, tempo giù, io. E la sabbia, mi ha fatto in terra giù, capito? Beh, questo di sicuro. Non si ricorda a lui, tanto. Uia. Vabbè, siamo rimasti soli, Luca. Sì, non c'è problema. Martino. Ai, ai, ai. Prova. Mettere quella. Lascia vedere. Che casino. Boh, fanno le cose, fanno. Boh, non lo so, così. Ci mettono a toccare. Vabbè, anch'io la verità, quando sbagliavo, ma ho imparato anche, no? C'è anche da guardare e imparare. Io tante cose le ho imparate quando una persona entrava dentro il mio computer tramite un programma, no? E vedevo un po' di spostamenti, sai com'è, no? E ho imparato a fare tante cose. Tante cose, Giulio. Boh, finalmente prima di me, quando lo cercavano i bidi, se parlavano aveva anche del mio aiuto. No? Sì, ma è così, sai cos'è Luca? Ci vuole tanto volontà per non applicarsi a delle cose, poi anche una piccola dose di passione almeno ci vuole. Io ho un computer che anni a casa ce l'ho da non sempre vedere, ma se l'avevo più di 10 anni, o di più, ma solo perché mia figlia l'ho sempre usato per lavoro, eccetera. Pensa che ne abbiamo 4 qua computer, uno di base e 3 portatili, ti puoi immaginare. Beh, io so fare pochissime cose, tutto questo perché? Perché non mi appassiona, sinceramente non mi appassiona, la verità. È bello, mi riconosco che è molto importante anche, e quando mi serve qualcosa apro il computer e risolvo un problema e mi informo, però non sono uno di cui, ad esempio, non so, con la chat oppure con la webcam, no, non me ne frega niente tutte quelle cose lì, io guardo solo ed esclusivamente cose, non so, di elettronica oppure informazioni di vario genere, capito? Allora queste cose sì, ma tutte queste altre cose da giovane forse, sarà per quello che io non ci sto attento troppo a quelle cose, capito Luca? Vabbè, già c'entra, se non vedi, non, come si dice, non puoi imparare, ecco, tante cose le fatte da lì. Come installare un programma, sappiamo come ti si va a cambiare secondo me era molto difficile cambiare l'antivirus, una gazzarda, è un gioco, non si può fare. Poi visto che entrava nel computer e mi faceva vedere, cioè, dove passaggi, ecco, da lì ho imparato tante cose, non solo quello, no? Tante, usare dei programmini magari, ancora no, perché non è facile, programmini quelli che fanno i disegni, sono queste cose così, quindi non li ho mai visti, poi ce ne sono tanti che li usano, capito, dammi che cambiano la voce, cose così, poi quelli, come si chiamano? I mixer, quelli virtuali, quello è un casino, ma cacchio fai, ci sono tanti tasti, tastini, non lo fa, ma l'ho scaricato, installato, ho detto da che parte inizio, se non lo so usare, cosa ho fatto? Poi l'ho disinstallato, non l'ho più messo. Sì, perché è così, lo so, ripeto, Luca, io sinceramente non mi appassiono troppo al computer, la verità, però riconosco questo, lo riconosco alla grande, che è veramente una attrezzo molto ma molto importante in tutti i sensi. So che io non ho quella passione, mi piace più il baracchino, mi piace stare lì al baracchino con il microfono avanti, possibilmente con il saldatore anche in mano, per fare piccoli esperimenti, piccole costruzioni e così via. Sono sempre, adesso da un po' di tempo sto riprendendo di nuovo, perché avevo sospeso per tanto tempo il discorso soldatore, piccole lavoretti eccetera, no? Perché da quando avevo cambiato casa poi ho avuto tanto da fare, ho avuto e poi tante cose le ho lasciate perdere per vari motivi. E invece adesso mi sto accorgendo che la passione che avevo prima mi è rimasta nel cuore, non si può dimenticare. Capito? E allora sto riprendendo piccole costruzioni, piccole cose, piccoli esperimenti di elettronica, come ho sempre fatto d'altronde, capito? E allora tiro avanti così. Soprattutto in questo ultimo periodo che c'è poca gente al baracchino, allora mi dedico un po' di più al soldatore e cerco di riprendere quello che è il mio hobby da sempre, da quando ero ragazzino, piccolino, ma proprio piccolo, piccolo, piccolo. Vai Luca. E vabbè, la differenza tra me e te è... c'è un abisso anche, nel senso che tu sai fare altre cose che io me le sogno, per dire, no? Ma vabbè, il computer, ti posso dire che ho imparato tante cose, cose che non ho imparato a scuola lì, in parole povere, fatti capire, però più vai più impari, è normale. Prima ci mettevo a scrivere ciao mezz'ora, adesso ci metto un secondo per farti capire, no? Insomma, è una volta che uno si mette, si impegna, se non è furia impara, come la chitarra, se no non impara mai, capito? È proprio questo di chitarra. Io ho regalato una chitarra a Giulio, praticamente questa chitarra c'ha, non so se c'ha il manico che c'è la colla, non so. Ne hanno messo un pezzo di finito tra il manico, no? E la cassa dietro, ce l'hai presente? Sì, non so. Ti sei attaccato, ma il manico sotto è diventato. Non so perché c'è questo pezzo di fin di ferro. Perché se si può recuperare, te la porto giù e vediamo un po' se si può recuperare, se non vale la pena, ecco. Perché una chitarra, ma diciamo, per campagna va bene, ecco. Cioè se prende un colpo non le frega niente. Quando capita vai qualche strimpellata, io sto per così. Cioè si prende un colpo non può salire la mia, che la mia è nuova, ma prende un colpo si graffia, si rovina, invece questa qua già vecchia, ma voglio assicurarmi che questo manico non sia di corrotto, ecco. Cioè c'è questo film di ferro che lo tiene in tira, ecco, che è collegato dal manico alla cassa. Beh, ho capito. Vabbè, vediamo se si può mettere a posto, perché no? Se si può incollare. Non vi parlare però di cose tecniche di chitarra, perché di cose tecniche non le capisco, ma se c'è da fare una riparazione sulla base di quello che è stato costruito non ci sono problemi, ma sulle cose tecniche lascio un compito a mio fratello, il più piccolo di famiglia, che lui ricostruisce alla grande e fa delle chitarre veramente belle. Tu pensa che solo di materiale ci spende roba di 600-650 euro solo di materiale, ma fa chitarre che sono a livello professionale, la verità. Tant'è vero, tanti gruppi in Sardegna ce l'hanno, cominciando ad esempio, tanto per fare un nome a caso, il Duo Pugioni, che poi non è più il Duo Pugioni perché non c'è più la donna che cantava, in quanto non può più cantare, e tanti altri gruppi, ma gruppi di un certo nome, capito Luca? No, non si parla, non è quella roba tecnica, no, tranquillo. È roba di falegname, è legna, solo il falegname lo può fare. E appunto, te lo sto dicendo, sulla base di quello che hai costruito, io se c'è una riparazione da fare, ce la posso fare, questo non ci sono dubbi. Però se poi mi chiedi per dire, non so, il suolo, quello, non me ne vale già che non devo prendere accidenti, perché non è un mestiere da falegname, capito? Ma se c'è da incollare una cosa che si è rotta, quello non è un problema, lo farebbe chiunque, capito? Sì, e poi sono anche ignoranti, guarda, ma cioè la gente così ignorante, Allora, però non esce. Cioè, praticamente abbiamo messo questo pezzo di fin di foro collegato, come ti ho detto, al manico, alla cassa, no? Dietro. Come hanno tirato questo fin di ferro? Cosa è successo? Praticamente sotto il bordo, tutto schiacciato, Ma non ci vadi, dai. Come si fa a fare una cosa del genere? Cioè, proprio da stupidi, gente stupida. Cioè, non li comprendo una mazza. Ah, cioè, si è rotto il manico, qua c'è la musica, va a fare un culo. Cosa ti metti a rovinarla ancora di più a sta chitarra? Sono allucinante. Vabbè, di quello veramente non me ne frega niente. Interessante che io, tagliando questo fin di ferro, non ci sposti il manico, ecco, se si può incollare. E in più ci manca, se tu hai presente una chitarra, lì con la chitarra c'ha un cosa in plastica, che c'ha dove metti le corde, ecco, c'è anche quello lì rotto, non so se lo vendono quello. Lo devo dire, Luca, non so niente di questa fatto qua, non lo so. Ripeto, se c'è da incollare qualcosa, per il collo, per voi però ce ne sono, ma non mi chiede né del materiale, perché allora mi dovrei rivolgere. Mio fratello, ripeto, già le sa queste cose, se si trovano i pinti, se si trova tutto, insomma, con lui già lo sa. Però io non lo so perché non mi sono mai interessato, la verità. Capito? Però se c'è da incollare il manico, lo incolliamo, che problemi ci sono? Non ce ne sono problemi. Se si è andata a casa un pochino, si è scollato, si incolla lo stesso, non è così difficile. Ma per quanto riguarda poi gli accessori, accidenti la tosse. Per quanto riguarda gli accessori che ci sono nella chitarra, no, non mi risulta che non li compri nulla, capito? Nonostante che io sono qui a casa e praticamente la mia famiglia sono tutti musicisti e tutti cantanti, tutti cantano e tutti suonano, e io non so né suonare né cantare perché sono stonato peggio di una campana, che puoi immaginare. Io tempo fa qui c'era una chitarra di mio genero, ci ha messo il microfono, ci ha messo amplificata, era una chitarra normale, e dopodiché se ne ha comprato un'altra, anzi a dire la verità gliel'ha regalata a mia figlia, una chitarra a 12 corde, si trova lì, è un sogno, ma bella, e questa volontà quelli là, vabbè, siccome lui fa musica country, va, no? Ed è molto bravo cantando in inglese, suonando quel genere di musica. È appassionatissimo e poi è bravo, devo dire che è bravo, la verità. No, non sto chiedendo se, no, ho detto, sono quello, ma lo detto così, non è che se lo sai tu. Questo coso, non so come viene chiamato, praticamente, vabbè, tiene le corde dritte, diciamo, dal manico, passano dal manico, vado per regole, proprio il manico, la parte sottile, diciamo, da lì c'è un coso in plastica, che praticamente tiene le corde dritte, metti quello non suona, c'era la corda va fuori, ecco, diciamo, scende sopra al manico, e niente, che tutto così, per essere un po', se lo vendevano sto pezzo, adesso non mi informerò, per buttarla e buttarla, se ne vale la pena, certo, se c'è da spendere tanti soldi, no, non me la futti nuda, perché la chitarra è già un po' vecchia, capito Giulio? Vedere un po', se si può recuperare a spendere, non so, adesso vediamo, 10 euro, 15 euro, 20 euro, non di più, perché non se ne vale, una chitarra costa 60 euro nuova, quale te la compri nuova? Lo so, se ne ha comprato uno mio fratello, ha amplificato da poco, ma lui la usa, lui canta, eccetera, ha amplificato, sei tanto sicuro, ma tu devi sentire questa chitarra come suona, ha una timbrica meravigliosa, ma veramente bella, infatti lui è rimasto meravigliato, infatti lui dice sempre, per me con lui si è confuso, non è possibile che mi potesse vendere una chitarra a 75 euro, o una chitarra amplificata come questa, non è possibile, quello si è sbagliato, cosa te ne fregate? Ah beh sì, quello sì, ma per dire no, lui stesso è rimasto meravigliato, guarda, vabbè, ok, ma quasi sai cosa faccio Luca, mi sembra ragioso, così, anche perché ho sentito poco fa il campanello, forse è arrivato qualcuno, io sono nella notte, e giù nel salone sicuramente è arrivato qualche parente. Ti saluto Luca, ci sentiamo, dai, alle prossime, buon divertimento con il computer e speriamo di risentirci presto anche in frequenza, così almeno rinnoveremo questa frequenza, nel senso che la rendiamo viva. Va bene Luca, ci sentiamo, ciao ciao, grazie per il questo, alle prossime. Di nulla, ci mancherebbe, grazie a te. Già mi farò un salto, qui te la porto, vedremo un po' giù. Riusciamo a cavarne il piede, sennò la forza. Mi già pure entrare un guascioletto, ma non sai. Vale la pena, spendere poco, va bene, se no niente. Augura. Adesso continuo i miei lavori a cercare, vediamo un po' se riesco a cavarne il piede, così prendo un foglio, una penna, segno tutto. E domani sarò pronto per fare questa maledetta connessione, dai. Ok, alla prossima, ciao ciao. Ok, ciao Luca, ci sentiamo, ciao. Ciao Claudio, se sei ancora all'ascolto, ciao. Ciao Giulio, ciao.